che fa, è membro dell'AGC, Sì, l'associazione dei gioielli. esattamente, è un'associazione del gioiello contemporaneo italiano e in un qualche modo si è formata ormai da 5-6 anni, non mi ricordo, 2007, e niente, si organizza appunto, raccoglie un po' le persone sul territorio italiano e organizza sia degli eventi, mostre, anche delle conferenze, perché è anche interessante questo, no? Sentire appunto parlare certe persone del proprio lavoro e scoprire effettivamente come, nonostante l'opera o il gioiello realizzato sia così distante da quello che stai facendo tu, o magari il gioiello realizzato non è per te così interessante, ma quello che ci sta dietro è invece qualcosa di molto stimolante. E può essere anche vicino a al tuo pensiero. Infatti, a volte io dico, non è importante sentir dire è bello o non è bella una cosa, ma forse se appunto può stimolare sia delle domande che degli interessi. Delle riflessioni. Sì.